Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il neopresidente americano ribadisce l'intenzione di costruire un muro al confine col Messico. In alcune parti, spiega, si tratterà semplicemente di uno steccato, una recinzione. Il rafforzamento della frontiera messicana è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del repubblicano. Confermata anche l'intenzione di espellere i clandestini a partire da quelli con precedenti penali. Una cifra, spiega Trump, tra i 2 e 3 milioni. Poi decideremo cosa fare anche con gli altri irregolari, aggiunto il tycoon, che lancia poi un appello ai tantissimi manifestanti che da giorni protestano contro di lui al grido di Trump non è il mio presidente. Lo fanno perché non mi conoscono, dico loro di non avere paura, le parole del futuro inquilino della Casa Bianca, che poi ha definito alcuni di loro come dei professionisti delle proteste. Ai suoi sostenitori invece Trump chiede di fermare gli attacchi razzisti. Adesso non mi interessa tanto parlare del muro che vuole completare, allargare, allungare Donald Trump, un muraglione enorme che dovrà partire da San Diego, arriva fino al Golfo del Messico, passa California, Arizona, New Mexico, Texas. C'è soltanto il Rio Grande che passa in mezzo, che è un muro naturale. Serve a non far passare i messicani negli Stati Uniti. C'è un vai continuo lungo con la frontiera. Io ricordo una notte la passai a Tijuana a guardare il passaggio dei Pollos. Passavano, saltavano, andavano dall'altra parte, pronti i suoi militari, li riprende anche le jeep, li riportano indietro e poi ripassavano. Sempre uno spettacolo, diciamo, interessante, se non tragico, vedere le persone tentano di valicare un muro che segna un confine. Ce ne sono già tanti di muri esistenti per segnare le differenze, l'impossibilità fisica di passare laddove non c'è possibilità di conciliazione fra persone diverse, persone che non si vogliono incontrare, o qualcuno non vuole quelli che vengano dall'altra parte, perché c'è qualcuno che sta meglio e qualcuno che sta peggio. Se no non ci sarebbe senso, non ci sarebbe senso di avere un muro, nessuno avrebbe voglia di passare, tutti starebbero bene a casa loro, passerebbero così per salutarsi e darsi la mano. No, il muro è qualcosa che segna una differenza. La mia generazione è segnata dal muro di Berlino, il simbolo della guerra fredda, dal 61 all'89. 28 anni che sentivamo le cronache ogni giorno della gente che provava a passare da Berlino Est a Berlino Ovest, qualcuno ci lasciava la pelle e c'erano oltre, mi sembra, 200 morti, sono stati qualcosa del genere nel corso di tutti questi anni. Tanti muri ci sono e di tanti se ne parla, il muro che vogliono fare gli uomini del Regno Unito a Calais, perché è la città che segna il passaggio dal grande campo migranti, la giungla, pronti a passare la Manica, ma non vogliono e quindi si fa un muro. Ma è un muretto, non sarà molto lungo, è una cosa di un chilometro. Più lungo sarà probabilmente il muro di filo spinato, sono 180 chilometri che Cipro divide i greco-ciprioti dai turchi, ce n'è anche un altro tra Bulgaria e Turchia, un altro ancora fra Spagna e Marocco, sono 20 chilometri di barriere, sono due città autonome, ma ci sono 12 chilometri di barriera tra queste due città. Vi faccio qualche esempio, sto spulciando la storia dei muri nel mondo, ce n'è uno in Arabia Saudita, nel confine con l'Iraq, sono 800 chilometri, non sono proprio muri, ma sono fili spinati, elettrificati, coi sensori, insomma non può passare nessuno. In Iran ce ne sono 900, ce n'è uno molto lungo nei 900 chilometri che separa appunto l'Iran dall'Afghanistan, stanno ancora lavorando per mettere un altro muro, anche lì sembra ci siano dei problemi di passaggio. Fra Corea del Nord e Corea del Sud, anche lì c'è l'ira di Dio di marchingegni per non far passare da una parte all'altra. Poi ce ne sono vari in Africa, ce ne sono molti. Insomma, vi è mai venuto in mente che un muro potrebbe essere la soluzione a tanti vostri problemi? Sì, perché tante volte non ci pensiamo, ma mettere un muro evita di negoziare, di contattare, di caricarsi di problemi altrui. Riccardo Pazzaglia si inventò ai tempi di quelli della notte, erano i primi anni 80, uno spettacolo di grande fortuna di Renzo Arbore, c'erano vari personaggi che rappresentavano gli stereotipi di quegli anni, il napoletano paziente, arguto, Riccardo Pazzaglia si inventò separati in casa. I separati in casa erano separati appunto da un muretto, non avendo il denaro da investire in una pratica di divorzio, fecero un muro passava a metà per il talamo nuziale. e questo impediva di affrontare in maniera più articolata il problema. Ecco perché pensai al muro di Berlino. Dottor, scusate, ma che intendete dire quando parlate del muro di Berlino? Vado bene così? Sì, brava, ecco, un po' più accostato. Vedi, non lo facciamo a secco, perché così la mattina tu prendi i foratoni e li sistemi nell'armadio, in modo che la stanza resta bella ordinata. Ma tu sei pazzo! E io tolgo il muro tutte le mattine e lo rifaccio la sera. Ma fisso non lo possiamo fare, perché prima di tutto il padrone di casa non ci darebbe il permesso. E poi perché la cosa assumerebbe il significato di una divisione più profonda, non so, di una separazione anche spirituale. Capisci? O preferisci il sarcofago? Il sarcofago? Sì, il sarcofago. Tu ci vai a guadagnare, perché risparmi anche di fare i letti, perché i sarcofagi la sera si adagiano sopra i letti già fatti. Guarda che non occorre comprare i costumi. Erano vari stratagemmi per impedire il contatto fisico, impedire la visione perturbante, dare un segnale di separazione, però transeunte, durante il giorno probabilmente bisognava mostrare al resto del mondo che la coppia rimaneva unita, quindi si demoliva il muro o si usciva dai sarcofagi, che comunque erano delle maniere per isolarsi. Beh, voi dove avete pensato di ergere un muro? Si inizia da mettere una piccola recinzione fatta di cannine per separare l'orticello dell'Umarel dall'orticello dell'Umarel vicino, si va avanti insistendo sulle divisioni fra giardini di vicini, si va avanti mettendo delle cannucce antipipì di gatto nel cortiletto condominiale, si va ancora avanti immaginando di insonorizzare una parete, cosa che mi è accaduta di fare in un posto dove passo gran parte della giornata, fra casa vostra e casa del vicino. Vi rendete conto che la parete è carta velina, il foratino non è sufficiente a darvi la sensazione della vostra privacy, quindi fate un muro a casa vostra, chiamate una ditta specializzata, chiedete quanto costa, fate fare un preventivo, un pannello fonoassorbente e vi appiccicate alla vostra parte la parte fonoassorbente, così evitate il contatto contaminante e fastidioso con la vita privata del vostro vicino di casa. Mario, buongiorno. Prima telefonata. Buongiorno, sì, volevo solo chiarire un punto che non è chiaro mettere sullo stesso piano il muro di Berlino e il muro che eventualmente vuol far che tranne. Noia, però Mario, quanto lei è noioso e pesante, mi scusi, che stamattina sto parlando per metafore, sto già parlando dei muri che si possono costruire a metà del letto matrimoniale, le vuole specializzarmi il fatto che il muro di Trump è diverso dal muro di Berlino, ma scusi, ma basta guardare Wikipedia, c'è scritto tutto, cioè questa mattina non aveva niente di meglio da fare, mi dica lei un muro dove lo vorrebbe far crescere. Si rischia di creare della confusione. Ma confusione perché? Ma per cosa? Ma confusione di cosa? Ma non, ma chi ha detto? Il muro di Berlino è il muro di una prigione. Questo oddio, è quello che noia. Sì. Vabbè, sì, ho capito. Quando ha detto questo sente meglio. Noia. Ma se, no, sì, è noiosissimo. Noi, è una trasmissione leggera questa. Ma siamo noiosi tutti e due. Ma no, lei non sono noioso. Io sto. Le faccio una domanda. Dove lei vorrebbe far crescere un muro, visto che ha fatto questa difesa non richiesta e inutile e gratuita di Trump? Se potesse tra l'Italia e il Nord Africa, ma non si può, c'è il mare. Oh, vedi, lei vorrebbe fare un muro. E quello cosa sarebbe? Un muro di prigione o un muro di difesa? Un muro di difesa. Un muro di difesa. Noi ci troviamo e li andiamo a prendere sulle spiagge. Benissimo. Quei personaggi che arrivano con i barconi, perché fa comodo a certe, sì, cooperative, sappiamo, certo, tutti perché. Un muro di difesa. Va io bene. A casa mia voglio difendermi e anche difendermi con le armi se serve. Allora aspetti, fermo un attimo. No, che interessante, vede che tira fuori il lato interessante per questa trasmissione. Ha fatto una difesa all'ufficio pensando che io ce l'avessi con Trump. In questo momento non è nemmeno nei miei pensieri. Stavo pensando, se lei potesse scegliere, non faccia scelte di tipo nazionale, quelle le lasci a chi gestisce i nostri destini nazionali. Lei ha una proprietà sua personale? Certo, ne ho più di una. E qualcosa, mi faccia un esempio, la sua proprietà più preziosa, quella a cui tiene di più. La mia casa col giardino. Oh, sua casa col giardino. Il suo giardino come è circondato per essere difeso, diciamo? Con il muro e la rete metallica. Ma è elettrificata o normale? Perché non si può, altrimenti vado in galera, se no la elettrificherei. Si potrebbe. Anch'io. No, non si può. Ma lei se si potesse lo farebbe? Certo. È così, se qualcuno tocca ci rimane attaccato e impara. Sono già entrati saltando la rete metallica. A casa mia c'è il campanello. Chi vuole entrare deve suonare il campanello. Ma scusi, ma sopra non ci ha messo il filo spinato? Quello si può mettere? Certo che c'è il filo spinato. E come hanno fatto a passare col filo spinato? Tagliano la rete. E non c'è la rete anti-effrazione? Non esiste? No, la rete anti-effrazione. costruzione, se uno viene con una forbice seria la apre. No, no, ma c'è quella che non si taglia nemmeno con le tronchese, su questo sono sicuro. Esiste. No, no, c'è, c'è, come no, c'è, è fatto, diciamo nei luoghi di alta sicurezza. Una casa mia non deve entrare tagliando la rete, punto, io non entro in casa degli altri tagliando la rete. Vabbè, se gente... uno entra a casa mia tagliando la rete, io devo poter avere il diritto di fermarlo, certo. In ogni modo, vabbè, non ce l'ho, non ce l'ho, perché se io prendo qualcuno e lo chiudo in garage, poi arriva il carabiniere... Sequestro di persona, sequestro di persona. Bravo, e allora noi viviamo nello stato di... nello stato di pappagone. Sì, ma torniamo a casa sua, mi interessa. Dentro casa, le stanze hanno delle forme di isolamento della privacy? Lei può stare da solo in camera sua? Ho l'allarme. Ma no, verso l'esterno. Non c'è nessuno a casa sua, qualche volta lo infastidisce. Che non vuol vedere, dice, stattene in camera tua e ti chiudo dentro. Assolutamente no, perché sennò va fuori casa. Non c'è nessuno che... Quindi deve... chi non sta alle leggi di casa se ne va fuori. Certo, è come le leggi di uno Stato. Io ho le persone che vengono in Italia, nessuno le ha chiamate. Ma lei chi l'ha eletta come capo di casa sua, che può dare la legge agli altri? Mia moglie, è una società democratica. Ma chi comanda, lei o sua moglie? Siamo d'accordo. E chi comanda? Ognuno per le sue mansioni, io comando per quel che mi riguarda e lei comanda per quel che riguarda. Ma metta caso sua moglie vuol fare entrare qualcuno che a lei sta antipatico, metterà una sua difesa? Se lei vuole andare in un'altra stanza, non vuole vederlo, deve far presto andare via. Entra, ma deve far presto uscire. Vabbè, se sua moglie ha piacere questa persona rimanga, perché certo, deve... ma deve suonare il campanello, non deve saltare la rete metallica. Ma chiaro, ma se suona il campanello uno, sua moglie, ciù che bello, quanto sono felice. In Italia la gente entra saltando la rete metallica. Ma lei perché parla all'Italia? Parliamo di casa sua. E ci rovina in tutta Europa. Io ho dei clienti in Germania che non ne possono più. Io parlo con i miei clienti, io giro tutto il mondo, viaggio dappertutto. Mario, guardi, Mario, scusa, in Europa ho la capito. Gente non ne può più. Ma Mario, perché lei parla sempre a nome dell'Italia, a nome del... Parli di casa sua. Può un attimo restringere l'attenzione al suo microcosmo? Casa mia, se lei vuole entrare a casa mia, suona il campanello, si presenti, io le apro. Certo. Se ho voglia di aprirle, se no non le apre, lei sta fuori. Vabbè, abbiamo capito. Mario, questo volevo sapere. Non è che il presidente, il prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sente minacciato dal fatto che abbia elencato fra i tanti muri quello di Berlino e quello che probabilmente farà o non farà, o ha detto di fare o di completare, che hanno fatto altri. Stia sereno, stia tranquillo, nessuno attenta alla sicurezza di Trump. Che non ho mai sentito nella storia dell'umanità, da quando io la conosco, ho il dono della ragione, gente che difenda a spada tratta quello che è, per luogo comune, la persona più potente del mondo. Stia tranquillo, il presidente degli Stati Uniti sa come difendersi. Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Molto interessante, volevo solamente fare un appunto da messicana che sono, nonostante vivo in Italia. Allora, prima di tutto, credo che c'è tanta ignoranza di cosa stiamo parlando, a cominciare dal signor Trump e di tanta gente che ne parla adesso senza sapere i fatti. Voglio dire, questo muro che il signor Trump vuole costruire esiste. Esiste, lo ha costruito Bill Clinton nel 1994. Sì, ma detto, lo vuole completare. Ignoranza, signora, in tutti i giornali. Ma esatto, ok. Ci sono i disegnini in tutti i giornali d'Italia. Il pezzetto certo, già fatto è quello che vuol fare. Adesso noi quello che vogliamo noi messicani è tornare, tenerci un'altra volta il nostro territorio che è stato rubato dagli Stati Uniti. E Nevada, il California, il Utah, l'Arizona, Nuovo Messico. Sì, vabbè, adesso sì, ho capito. Era territorio messicano e lo vogliamo indietro. Ma tutta l'America era dei nativi americani? No, era territorio messicano. C'è stata la guerra fra il Messico e gli Stati Uniti e nel 1846 e lì gli Stati Uniti ha rubato questo territorio a Messico. Sì. Per quello si chiama San Francisco, non si chiama San John. E questo... Vabbè, adesso signora, era nostro? Sì, vabbè, adesso il revisionismo nel territorio fra Messico e Stati Uniti non è un problema che in questo momento mi tocca molto. Io volevo, se possibile, solleticare gli ascoltatori e nel costruire il vostro muro ipotetico. Vedete che siamo in un momento in cui tutti si sentono grandi analisti degli equilibri internazionali, e quindi io voglio parlare del muretto che vorreste fare dentro casa vostra per non vedere più in faccia le persone che magari vivono assieme a voi, e voi volete parlare della rivendicazione della guerra ottocentesca fra Stati Uniti e Messico, o del fatto che nessuno può nominare invano il nome di Donald Trump, se no la gente si arrabbia. 800 24 00 24, dove voi costruireste il vostro muro personale. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog. Cronache meridiane. Procuratevi mattoni forati, malta, staggia, cazzuola, acqua e pennello. Dapprima munitevi di guanti da lavoro e bagnate il muro utilizzando un pennello imbevuto nell'acqua. Poi con la cazzuola applicate la malta sui lati dei mattoni e inseriteli nella parte di muro che dovete ricostruire. Se il mattone eccede la misura della posizione nella quale deve essere inserito, rompetene una parte con la cazzuola in modo da ottenere la grandezza desiderata. Aggiungete poi la malta tra mattone e mattone, servendovi della cazzuola. Con la malta stessa riempite lo spazio tra la parte nuova e il pezzo di parete già esistente. 800240024. Voglio riportare questa trasmissione a una domanda ben precisa: dove voi vorreste costruire il vostro muro? Ma non perché non voglia parlare di fatti che riguardano i grandi equilibri politici mondiali, perché in questo momento il tema è un altro. Non vi proclamate improvvisamente esperti di politica internazionale, lo sarete senz'altro molto più di me, vedo da quanti scrivono, dicono il vero muro Nicoletti lo metti da tre gli ascoltatori con la tua saccenza. Quale saccenza? Faccio una domanda, la trasmissione è impostata su una domanda, non è una trasmissione su Donald Trump, ma su il fatto che l'idea del muro è l'idea di qualcosa che non ci più mette in contatto con il resto di un mondo con il quale non vogliamo avere contatti. O un mondo che entra furtivamente, clandestinamente, con intenti negativi nel nostro spazio vitale, nel nostro spazio emotivo, come diceva il signor Mario, vuole il muro perché nessuno possa entrare a rubare a casa sua. Lecito, giustissimo, assolutamente ineccepibile, non nulla da dire. Ma esiste anche la possibilità di creare altri muri, muri oltre quelli che difendono la proprietà, che difendono i limiti ideologici, che ci impediscono comunque di entrare in contatto e contaminarci con gli altri, al di là del fatto che non vogliamo correre il pericolo di essere aggrediti. Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Nicoletti. Guardi, io sono stufo di sentir parlare di muri. I muri esistono nelle coscienze delle persone, perché noi antropologicamente siamo fatti per interagire, per cooperare, per stare insieme agli altri, per arricchirci l'uno della presenza dell'altro. Ora, sentir parlare di muri da tutte le parti mi sembra più che sono dei muri nelle proprie coscienze, nel difendere protervamente quel piccolo benessere che, se poi uno va a guardarci bene, non è che è stato raggiunto da solo, ma sempre cooperando con gli altri. Allora, che senso ha parlare di muri? Noi siamo da soli, siamo insufficienti per noi stessi, abbiamo bisogno di parlare, di interagire, di arricchirci della presenza le une degli altri. Quindi secondo me siamo fuori, non riesco proprio a entrare in sindonia con chi parla di muri. Vabbè, è questo il suo punto di vista. È destituita di fondamento. No, vabbè, ma guardi, mica lei non si deve né flagellare né deve arrabbiarsi o, come fanno altri ascoltatori, irritarsi. Esiste un grado di civilizzazione ormai dato per acquisito, il quale che io difendo fortemente, che è quello dell'incontro dialettico. Si parla, si confrontano le opinioni. Lei pensa che il muro sia qualcosa che appartenga a un passato. Fare un muro non ci permette di vivere la nostra contemporaneità, che è fatta nel segno della condivisione. E la condivisione naturalmente deve essere equa, ci deve essere un vantaggio in ognuno dei condivisori, questo è dato per scontato. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Io il muro di cui state parlando lo vorrei costruire intorno a chi fuma e intorno a chi porta in giro i propri animali, o comunque tiene animali che impone di fatto al prossimo. Allora, quando bisogna razionalizzare, sennò si parla solo per figure astratte. Vediamo come lei potrebbe realizzarlo. Allora, intorno a chi fuma, dei bunker dove si chiudono dentro le persone che fumano. Non possono fumare, quindi non possono fumare. Ma già ci sono i locali per fumatori nei ristoranti. Nei condomini o negli ambienti pubblici si va fuori a fumare, invece ci vorrebbe. E quindi, quelli che fumano devono ciucciarsi tutto il loro fumo. Quindi sarebbe una specie di camera gas alla fine? Più o meno, volendo. E quindi li vorrebbe morti? No, loro fanno la loro, diciamo, scelte, si intossicano in maniera intensiva. Invece gli animali come fa? Fa dei camminamenti, come erano i due muri di Berlino, dove camminano in mezzo le persone col cane al guinzaglio? Qualsiasi cosa, basta che non siano invadenti degli spazi dove potrebbero essere bambini, o comunque adulti, e gatti che, che per quanto riguarda i gatti, situazioni che possano permettere, per esempio nel mio caso, di tenere in giardino le aiuole e i fiori che voglio io senza vederli. Ah, lei, ho capito, lei è l'umarel giardiniere del condominio che non vuole i gatti fanno la pipì perché secca i fiori. Non è un condominio il mio, comunque. No. Ah, beh, no, beh, la sua proprietà. Scusi, non è mica un'offesa. No. È la sua proprietà. No, nel senso che non è un condominio, non può fare un muretto attorno ai gerani in modo che i gatti non ci vanno a fare la pipì sopra. Quello. I gatti hanno 7 vite e anche 7 saltano spazi. saltano alti abbastanza, questo è già un problema. I gatti saltano più alti dei cristiani, quindi è più difficile. Daniela, buongiorno. Daniela Miari è titolare della ditta Elpa Italia, che produce e vende sistemi di recinzione elettrica per animali. Cade proprio a fagiolo. Esiste. Buongiorno innanzitutto. Lei che produce recinzioni elettriche specializzate per animali, sono quelle che ha citato il nostro primo ascoltatore, dice: io le metterei attorno a casa mia, ma lo proibisce la legge. Precisiamo subito, non si può mettere attorno a casa una recinzione elettrica. Non si può mettere, ma non si può mettere per un discorso di etica, ma non è vietato dalla legge, nel senso che le recinzioni elettrificate hanno la normativa impone una energia di scarica di uscita pari a massima 5 joule. Sono molto tecnica, ma è questa la normativa. No, lo spiego. 5 joule cosa corrisponde più o meno? Una scossettina. Sì, allora è l'energia che praticamente il male che l'animale o la persona nello specifico sente ed è misurata appunto in joule, quindi la scossa che si sente paragonato più o meno a quando, non so, in una giornata ventosa si apre l'automobile e si prende la scossa. Ah, quella che si prende anche dentro casa quando uno tocca una superficie e prende una scossettina? Ecco, poi l'intensità varia da questo joule, la potenza parte da 0, 15 joule, fino alla potenza massima consentita in Italia, che è appunto i 5 joule. Allora, lei sta dando una grande informazione al primo ascoltatore, che ha detto: io la metterei la rete elettrificata, ma non si può, quindi se vuole la può mettere. Ripeto, la legge italiana non lo proibisce, non è utilizzata per questo scopo. Le recinzioni elettrificate nascono per contenere gli animali oppure per salvaguardare le colture dall'attacco di animali. Nello specifico in Italia c'è il problema dei cinghiali. I cinghiali oggi è un grosso problema, certo. È molto utilizzato in questo senso. Ma anche gli allevamenti, un allevamento di animali può tenere la rete elettrificata per impedire che escano fuori, diciamo, dal loro pasto. Assolutamente, certo. Le recinzioni nascono nei primi anni 50 nel più grande produttore mondiale neozelandese. Lo scopo era proprio contenere questi grandi allevamenti di ovini e poi negli anni l'utilizzo è talmente trasversale che si è applicato anche ai cavalli, ai bovini. E il concetto è lo stesso per cui vengono create queste recinzioni, anche per salvaguardare i frutteti, vitigni, dall'attacco di predatori quali appunto cinghiali, cervi, animali. Ma esiste diciamo, un modello di recinzione elettrificata per animali da cortile? Perché molti stanno telefonando e hanno telefonato in una trasmissione precedente per dire nei condomini, nei giardini, nelle aree private, molte volte anche un gatto, un cagnolino che va a fare la pipì crea problemi. Esiste una rete elettrificata per piccoli animali che dia una scossa? Certo, sì. Io ho richiesto di questa natura per cui magari nella stessa proprietà il proprietario vuole delimitare delle aree del proprio giardino dove appunto non vuol far entrare il cane, e quindi il cane, il gatto, l'animale anche vengono utilizzati per polli, galline, è possibile farlo. Ma io fino a che punto posso metterla? Facciamo alcuni esempi pratici, perché visto certo. Che è la cosa che stanno più chiedendo. Io ho una proprietà con un piccolo cortile intorno, posso recintare il cortile con la rete elettrificata. Devo mettere un cartello però, attenzione. Certo, è obbligatoria norma di legge segnalare la presenza della corrente, per cui sono dei cartelli in cui c'è la classica manina. Che prende la scossa. Sì. Ma io in teoria potrei mettere un po' di questa rete anche, non so, sul pomello della porta di casa con il cartello? Purtroppo no, perché tutto ciò che è metallo rende praticamente ingestibile la corrente, quindi scaricherebbe a terra e sul pomello di casa non si sentirebbe la corrente. Le recinzioni elettrificate vanno fatte con criterio, possono essere fruibili per varie cose, però... Ma un cancello sì, lo posso elettrificare? Un cancello può essere elettrificato con degli accorgimenti specifici. Allora io metto un cancelletto davanti alla porta di casa e lo elettrifico, ci metto il cartello, sono sicuro che la gente si prende una scossina prima di entrare. Sì, non è proprio così facile da creare, ma è possibile farlo. L'importante sì. è che non sia un reato, ecco questo, non è un reato. Non è un reato. L'importante è che uno poi non bari come quelli che truccano i motorini, che gli abbassano la testata, che poi a casa alza la corrente e fa 10 joule, che comincia a dar fastidio. Assolutamente sì. Allora fermiamoci un istante, le sue informazioni sono importantissime. 800240024, avete visto voi che mi date della persona che non capisce le complessità del buonista, del politicamente corretto. Vi ho dato un'informazione che non avevate. La rete elettrificata, se volete la potete mettere, nessuno vi arresta, basta che mettete un cartello e non eccedete oltre 5 joule. 800240024, a tra un istante. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Melog, cronache meridiane. 800240024, dove, come, in che maniera, di quale materiale costruireste il vostro muro? Si sta offrendo volontario un ascoltatore elettricista, è pronto a potenziare la recinzione elettronica fino a 400 volt, però dice non voglio saperne niente, poi è responsabilità vostra. Renato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Allora, parliamo del suo muro. Il mio muro è un muro, era un lenzuolo. Cioè lei aveva messo un lenzuolo dove? Per separarsi? Allora, le spiego. Io ero a Tabuk, in Arabia Saudita, anni 70. Sì. Avevo necessità di parlare con un generale per motivi di lavoro e anche per motivi di svago. Bene, questo signore, gentilissimo, mi invitava a casa sua anche di sera e quando entravo trovavo un lenzuolo steso a metà della sala. Ora, perché? C'era le donne dall'altra parte. Ecco, dall'altra parte c'era la signora, che io non potevo vedere. Ma il discorso è che, siccome il generale non parlava inglese, ci serviva della moglie dall'altra parte. Ah, che faceva la traduttrice, certo. Esatto, esatto. Tutto qua. L'avrei tolto questo muro, ma comunque non potevo. E non si vedeva nulla, sentiva solo la voce della signora. Solo la voce, sì. Se l'ha immaginata lei chissà quante volte, vero? Ah, sì. Me la immaginavo come una odalisca meravigliosa, ma non l'ho mai vista. E invece chissà che c'era dall'altra parte, però che vuol dire che ognuno a casa sua, moglie vuoi dei paesi tuoi, se la sarà presa come voleva. Comunque bella questa storia, avere la moglie dietro il lenzuolo che parla. Ti fa la traduttore. Beh, stupenda questa cosa. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno. Antropologo, ha scritto vari saggi, Ricordo niente, Come si vive quando manca tutto, Antropologia della povertà estrema, Sperling e Kupfer, 2009, ha girato soprattutto l'Africa. Però lei di muri ne avrà visti parecchi. Innanzitutto fammi un commento di questa donna dietro il lenzuolo che traduce. Una magnifica immagine che ti riporta al velo, che il velo separa, per le culture islamiche, le donne dal mondo cattivo. Non è che è il contrario, che deve coprirsi per non farsi vedere, proprio perché è una cura che l'harem, che vuol dire appunto velo, ha nei confronti delle donne. Questo nella fase antichissima. La fase di oggi è come murarla dentro un vestito di acrilico, perché poi i burka, una volta me lo sono messo un burka, me l'hanno fatto vedere, è di acrilico, fa schifo, è una specie di sembra quelle saune che si vendono per corrispondenza, fatte che un sacco di nylon che si mette addosso alla persona, è orribile. Certamente, in compenso la costruzione di muri è legata alla fantasia dell'uomo. Il più interessante che ho visto, l'ho visto a Belfast, al cimitero protestante e cattolico, separati ovviamente da un muro, ma il muro non è sopra, è sottoterra e impedisce la trasmigrazione delle anime da un lato all'altro del camposanto. Ah, no, hanno fatto un muro sotterraneo, che i morti non si contaminassero fra di loro. E certamente. Quindi c'è un'immaginazione infinita a riguardo, la cosa più carina è che hanno... Ma è vero che a Belfast li chiamano le linee della pace, sono 40 anni che ancora ci sono i muri per dividere protestanti da cattolici. Ma certo, certo. Appunto, poi la cosa interessante è che qualunque muro può essere superato. Appena hanno annunziato il muro tra Messico e Stati Uniti, alto 4 metri, i messicani hanno detto beh, facciamo le scale di 4 metri e mezzo, e quindi è la lotta tra il liquido e il solido, cioè il solido cerca di bloccare, anche nella geografia mondiale, cerca di bloccare l'acqua, ma l'acqua trova sempre una via. Quindi è una battaglia perduta quella che vogliono quelli che saltavano il muro di Berlino, che poi erano due muraglie, una di fronte all'altra, ti ricorderai, capito? Sì, tanto certo, la gente certo. passava. Tanto ma la gente comunque passava. Non è un meccanismo funzionale, perché i confini naturali non esistono, sono tutti artificiali. E in qualche modo crollano. Quello che è interessante è che è un paradigma di questo secolo, il fatto che i confini siano diventati liquidi, fluidi, mobili. Noi abbiamo creduto per 100 anni che invece fosse una cosa reale. Non è così. Beh, diciamo che però, da antropologo, quando l'uomo ha cominciato a fare un muretto a secco, delimitare la sua proprietà dalla proprietà da un altro, vuol dire che lì era stanziale, oppure lì c'aveva i suoi armenti che dovevano pascolare, e lì è cominciata, diciamo, la civiltà moderna, proprio con dei muri. Sì, però ci sono due tendenze contemporanee. Uno è quella della formazione del gruppo, e l'altra è quella della formazione di un territorio. Quindi per il territorio devo muovermi, devo uscire da quel muretto. Appena esco dal muretto sono un'altra cosa. Queste due tendenze in qualche modo hanno costruito Dio. Immaginate, io faccio il gruppo, la mia famiglia, quei 4-5 persone, però questo non riesco più a gestirmi. Gli altri sono tutti cattivi, sono tutti un'altra cosa, però io ho bisogno di espandermi, di raggiungere anche, che ne so, altre mogli. Le donne sono formidabili nell'abbattere i muri. Allora raggiungo il secondo gruppo. Pensa un po' a Troia, che certo. Cosa è successo con una donna, chiaro. Raggiungo il secondo gruppo, e col secondo gruppo troviamo il modo di dire beh, noi siamo abbastanza simili, però allora ci deve essere un qualcosa di lontano, che è strano, che è meraviglioso, misterioso. A furia di allargarci in questo modo, muovendoci il nostro orticello insieme a quello di fianco, ci inventiamo Dio, diciamo che è un essere così altro, così diverso da noi, che lui è trascendente, è il più grande muro che abbiamo mai costruito. Beh, infatti, se io penso alla mistica carmelitana, al castiglio interiore, pensano a sto castello da espugnare, bisogna entrare dentro, svalicare mura, steccati, salire sugli alberi. Santa Teresa d'Avila immaginava gli alberi, cioè salire in cima all'albero per arrivare non si sa dove, per arrivare all'assoluto. Comunque il muro ci separa da qualcosa che non conosciamo, che difficilmente forse vorremmo conoscere. Se conosciamo è sempre una grande fatica. Sì, comunque è una battaglia persa, cioè per definizione, cioè con qualunque costruzione che impedisca al liquido, al mobile di aggirarla, non esiste sulla faccia della terra. Ma in Africa che muri vedevi? Che si costruisce, almeno siamo abituati a vedere costruzioni tipo Caduco, e il muro che senso aveva? Sì, ci sono delle cose molto più semplici. Io mi sono trovato a Gennèque, una straordinaria città murata di del Mali, che è circondata dall'acqua. E un mucchio di ragazzini mi volevano vendere qualunque cosa, e io mi sono limitato a tracciare una riga per terra nella sabbia, e tutti i ragazzini sono stati al di là. Poi con la mano ho aperto una porta e i ragazzini uno a uno sono venuti di qua. Quindi anche in un universo che è concettualmente racchiuso da mura di mattoni di fango, una città bellissima, però basta una linea per terra per segnare la differenza tra uno e l'altro, e poi sta alla convenzione di aprire una porta e di far entrare ordinatamente chi deve entrare. Quindi altri muri, spine, qualunque tentativo deve contenere una porta. E questo i muri che stiamo studiando oggi non lo prevedono, e questo qui è proprio l'errore fondamentale, antropologicamente parlando, di tutta questa costruzione. Sì, perché poi il segno del potere è il controllo della porta, essere certo. Il guardiano della soglia. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, sei letteralmente ignorante. Anni fa costruivano mura attorno alle città, intorno ai castelli, intorno ai grandi re. Eh sì, perché anni fa avevano bisogno di avere qualcosa di solido che delimitasse il senso del potere. Il potere non era sufficiente ad autoaffermarsi, non aveva dei muri che delimitavano i limiti di questo potere. Noi uomini moderni dovremmo in qualche maniera capire che possiamo espanderci al di là della costruzione fisica. Il mondo fisico è un mondo che abbiamo già superato nel nostro immaginario, perché ricostruirlo? Sì, se mi permette Nicoletti, i muri una volta erano alti, Poi è arrivata l'artiglieria, ha cominciato a buttare giù i muri alti, che era più facile buttarli giù. Allora i muri si sono diventati a stella, bassi ma larghi. Quindi, voglio dire, la lotta tra chi entra dal muro e chi cerca di difendere il muro è antichissima e continuerà ancora. Ma dobbiamo comprendere subito che la realtà è diventata molto più liquida di quanto non pensiamo. E poi oggi un drone con 200 euro se lo compra chiunque, certo. Ammesso che possa farlo girare, con il drone si vede tutto dall'alto, cambia tutto, cambia anche l'idea della guerra, del combattimento, e si vanifica il muro. Il drone vola altissimo e può buttare qualunque cosa dall'altra parte del muro. È tecnologia a basso prezzo, ma a forte impatto. Maddalena, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un intervento come persona assolutamente contraria a qualsiasi recinto muro, con due esempi. Uno è quando ero piccola, io che abitavo in campagna, ero abituata ad andare al mio paese, abitavo un po' lontano, passando attraverso i campi. Poi i contadini sono spariti, sono nate le villone, i muri, i recinti, eccetera, adesso non si può più fare e questo per me è una grandissima perdita. I campi segnavano, una volta segnavano o coi filari o con le viti o con gli alberi o con i fossati. Il fossetto, sì, poi io saltavo anche il fosso, qualche volta mi storcevo la caviglia, ma era sempre divertente. L'altro esempio invece è molto buffo perché si riferisce proprio oggi, proprio a Melog, perché io vi ho chiamati per intervenire, ma nel telefonino avevo messo un'app, cioè un muro virtuale, per impedire alle chiamate da call center o centralini di telefonarmi. Quindi mi sono accorta a un certo punto che voi tentavate di chiamarvi, trovavate il telefono staccato e me ne sono accorta, per fortuna ho rimediato al problema. Però questo è per dire, io sono contraria e una delle poche volte che ho fatto l'errore di innalzarlo io mi si era rivolto contro. Vero, lei ha messo un muro contro quelle che la chiamano per offrirgli abbonamenti fantastici alla rete elettrica, alla rete telefonica. E questo le impediva l'enorme privilegio, infatti, la lussura indicibile di parlare con noi questa mattina. Infatti, adesso ho tolto tutto e permetterò alle compagnie di chiamarmi pur di non perdere le chiamate, certo, di me. Mi sembra logico, ecco, vale la pena, infatti, senz'altro. Anna, buongiorno. Oh, buongiorno Nicoletti, è un piacere. Dunque, io avevo un'altra riflessione, che è quella dell'opportunità. E le faccio un piccolissimo esempio. Avevo una gatta che chiudevo fuori quando pioveva perché sporcava il pavimento. Poi questa gatta poverina non c'è stata più e la riflessione è stata: ah, non l'avessi chiusa fuori. Ecco. Eh no, se stava dentro non si bagnava le zampe e non sporcava il pavimento. Sì, è vero. No, siccome la volevo libera, quindi che entrasse e uscisse, però il mio muro era proprio quello: no, quando tu mi sporchi la casa io non ti voglio. Ecco, questo è un po' rispetto ai muri nei cimiteri, nei paesi in cui città come Belfast, in cui cattolici e protestanti hanno dei muri che separano anche i morti perché le anime inquiete non possono toccarsi. Mi porto adesso in tonti la foto di un cimitero dove per la stessa ragione in Olanda c'era un muro che separava appunto i cattolici e i protestanti, ma due fidanzati, due innamorati, uno è stato seppellito da una parte e l'uno dall'altra del muro, e hanno costruito una sorta di piccola tubazione di cemento, di pietra, non so bene il laterizio, attraverso cui i due innamorati possono darsi la mano. Sono le due manine di pietra al di là del muro, dei due innamorati morti, seppelliti in terre diverse, consacrate diversamente, che continuano alla faccia di tutti a darsi la mano. A tra un istante. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, parliamo di muri. Mi ricorda un altro ascoltatore che sono molto addestrate alla citazione storica: ricordati quando l'impero romano era potente, le città non avevano mura, fu negli ultimi imperatori che, cosciente di non riuscire a difendere le città imperiali dai barbari, scrisse alle città di circondarsi di mura per difendersi. È vero, è un segno di debolezza dover alzare le mura, vuol dire che non c'è un potere sufficiente a difendere la città, il territorio, il punto di vista. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. E dunque la mia era ovviamente una cosa molto molto più semplice delle vostre interessantissime cose che avete raccontato. Mi è capitato qualche anno fa di andare in un camping presso l'isola di Tremiti e per accedere alla spiaggia ho dovuto fare un giro lunghissimo, perché quella era privata, quell'altro dovevi essere abbonato, quindi voglio dire, anche per raggiungere la spiaggia ho visto dei muri, delle recinzioni che impedivano il passaggio. Questo volevo condividere con voi. Che impressione le ha fatto vedere queste recinzioni, doverle scavalcare, saltare? Io da ragazzino mi divertivo un sacco, per me era una sfida vedere un muro, vedere un'inferriata, una cancellata. Era la voglia di saltare dall'altra parte. No, eravamo in tanti, con anche ragazzini piccolini, insomma non ci sembrava il caso, abbiamo obbedito e aggirato l'ostacolo, tutto qui. Allora rispondo, visto che stanno arrivando vari messaggi. Nicoletti, anche tu, servo della Confindustria, oggi non hai fatto sciopero. Non ho fatto sciopero perché non sono un dipendente di questo gruppo, sono un collaboratore. Con grande rispetto e grande solidarietà per i colleghi giornalisti, dipendenti del gruppo Sole 24 Ore, i collaboratori non fanno sciopero, perché lo sciopero lo fanno i dipendenti. Alberto Salza, ritorniamo un attimo a questa idea del muro. È vero comunque che chi costruisce un muro in sé, perlomeno nella percezione anche, diciamo, di animi meno elaborati dei nostri, è un segno di debolezza, perché in realtà non ha qualcosa di potente che non sia semplicemente mattoni o calce per difendere quelli che sono i suoi confini mentali, spirituali. Ma certamente, cioè, c'è un meccanismo semplice che poi facciamo tutti, è quello per esempio di mettere una mano sulla spalla della persona che vogliamo proteggere. Iniziamo a circondarla, la persona, perché vogliamo garantire che non ci allontani, non se ne vada da noi, quindi è proprio un segno della nostra debolezza che vogliamo mostrare agli altri come fosse una forza, quindi è un segno molto contraddittorio. Ma un'altra cosa è quella che i nomadi, per esempio, hanno al contrario, 5 punti cardinali, oltre ai 4 classici, hanno il centro, che spostano in continuazione. Questo spostamento fa sì che il loro muro sia del tutto invisibile, è l'orizzonte che loro seguono. Quindi la potenza del centro non ha bisogno di protezione quando è affermata, quando è consistente, quando è sicura. La grande insicurezza che abbiamo oggi, soprattutto da parte dei governanti, costruisce muri, non c'è assolutamente dubbio. Ma per questo qualcuno ha parlato di perdita del centro, per dare questo senso di straniamento totale, di incapacità di perimetrare le proprie dimensioni interiori, le proprie convinzioni, il proprio modo di vedere, la propria visione della vita. Si perde il centro e improvvisamente, mancando questa dimensione essenziale per chi si muove, in fondo tutti siamo un po' nomadi in quanto stanziali, perché ci muoviamo attraverso dei percorsi che ci impone la nostra vita, il nostro esistere, le nostre esperienze. Quando perdiamo il centro, subito ci viene l'idea che dobbiamo costruire un muro, ma per difendere noi stessi. Assolutamente, ed è una difesa, come abbiamo visto, impossibile, una difesa assolutamente ridicola. Quando si costruisce una corazza si inventa l'archibugio e addio la cavalleria. Il meccanismo è molto semplice, tutti i sistemi protettivi sono destinati a crollare. L'unico sistema sarebbe quello di costruire una condivisione così allargata, una compatibilità tra tutte le persone, riconoscendo il fatto che gli esseri umani sono un continuum genetico, non sono separabili né in classi né in categorie, tantomeno in razze. Ma questo è un'utopia ancora da venire, su cui bisogna però lavorare molto intensamente. Senti questo ascoltatore cosa mi scrive. Io vado spesso in Kenya e attorno alla villa ci sono due reti di recinzione distanti 50 centimetri, dove passa la corrente a 220-260, alte 4 metri, ma alcuni ladri fanno il salto con l'asta, entrano comunque nonostante che ci sia lui dice l'ascaro, non è un ascaro, è un masai, con arco e frecce messo alla guardia della notte. È vero, una volta fui ospite di una signora in Kenya e mi ricordo che lei dormiva in camera da letto, sarà messa a un cancello blindato davanti alla camera da letto, pare che fosse normale nelle case avere il cancello. Come vedi, questo dà ragione a te. Quanto più è potente il sistema di difesa, tanto più diventa arguto e ingegnoso il sistema di superare questa difesa. Nella stessa situazione, proprio in Kenya, io invece a Nairobi vivevo con una signora che lì era lì da tantissimo tempo, la quale non aveva minimamente cancello né protezione. Che ci hanno tutti però normalmente a Nairobi, abbastanza. Ci hanno tutti, il fatto stesso che lei non ce l'avesse costituiva sorpresa, e non abbiamo mai avuto casi in 40 anni di frequentazione di inserimenti. Qui in tutti casa, pensano, tra... chissà che ci avrà dentro casa per non tenere il cancello, meglio non rischiare. Esatto, solo un ubriaco è entrato, ma poverino è stato immediatamente catturato dalla gente che viveva lì, molta gente abitava in quel posto, e così siamo riusciti a, a eliminare il rischio abbattendo il muro, paradossalmente, proprio perché al di là del muro chissà cosa c'è, al di là dello scrigno c'è il tesoro. Questa è anche l'idea di fondo. Io credo che costruire più muri verso l'Europa sarà un incentivo a far venire più gente, quindi se, se si proteggono così tanto chissà quanto hanno. C'è anche l'altro sistema, che molti scavano i tunnel sotto i muri, dalle carceri si vade scavando un tunnel oltre che saltare dalle finestre, e sembra impossibile, ma due settimane fa sono evasi da un famoso carcere italiano con le lenzuola e con la lima, esattamente come faceva Totò e Peppino o facevano nelle comiche in bianco e nero. Questo però è un secondo muro, il muro contentivo, cioè quando vuoi tenere la gente dentro, che è ancora un altro aspetto molto, molto complesso, devo dire, e sono i muri che avete suggerito, il muro in casa, il muro del velo perché impedisce alla moglie di vedere mentre fa la traduzione, sono tutti muri progressivamente contenitivi, ma non verso chi viene da fuori, ma verso chi può scappare da dentro. Voi sapete che le recinzioni hanno, da tempo dei lager, hanno un'inclinazione verso l'interno verso l'esterno, secondo se vogliono contenere le persone dentro o quelle fuori ad entrare. Grazie Salza, ci sentiamo, alla prossima. Niente muri.